America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Londra, Mario Platero. I think we did have a very valuable opportunity today to discuss in real depth a strong and a shared agenda. The United States and the United Kingdom enjoy a truly special relationship. Celebrate a common heritage, we cherish common values and we speak a common language most of the time. Avete sentito le voci di Barack Obama, di David Cameron, primo ministro britannico, una conferenza stampa cominciata appena pochi minuti fa e ancora in corso, una conferenza stampa che fa il punto sugli incontri di questa mattina, gli incontri di lavoro più serrati fra i due leader, incontri che hanno cercato da una parte di riaffermare la solidità della relazione fra Stati Uniti e Gran Bretagna, ma dall'altra di affrontare un po' le tematiche centrali in questo momento sul tappeto della politica estera, soprattutto le rivoluzioni nel mondo arabo, il processo di pace in Medio Oriente e naturalmente la necessità di chiudere l'operazione libica. Su questo i due leader sono stati chiarissimi, non c'è più tempo, i giorni per Gheddafi sono ormai contati. Dunque i due leader si trovano su una lunghezza d'onda decisamente molto molto vicina. Nella mattinata hanno avuto altri incontri, un momento particolarmente toccante c'è stato quando sono stati a visitare le famiglie dei militari britannici e americani che sono andati al fronte in Afghanistan. Questo è stato sicuramente uno dei momenti più toccanti di questo viaggio. La disponibilità della Gran Bretagna, che ha inviato truppe al fronte con generosità, è stata ricordata da Barack Obama anche la sera prima dove c'è stata la grande cena di Stato. Vi ricordo che Barack Obama e Michelle Obama sono ospiti della regina Elisabetta e del principe consorte a Buckingham Palace, hanno fatto colazione ieri, c'è stata una cena ieri sera e questa sera ci sarà una cena d'addio, questa volta nella residenza dell'ambasciatore americano. Ma sentiamo la regina Elisabetta che fa il brindisi al presidente degli Stati Uniti d'America. I therefore ask you now to join me in raising your glasses to the continued health, happiness and prosperity of the people of the United States of America, and especially to the health of President and Mrs. Obama. Ecco, Elisabetta, devo dire grandissima, bravissima, aveva già raccolto straordinarie reazioni entusiaste durante il suo viaggio in Irlanda, chissà quanti brindisi avrà mai fatto durante la sua esperienza di regina, durante questo suo regno lunghissimo, ormai sono quasi 60 anni, una cena spettacolare, c'erano 170 persone, una tavola a ferro di cavallo lunghissima nella sala di ricevimenti di Buckingham Palace, la regina Elisabetta con un vestito bianco trapuntato bellissimo, la sua corona di brillanti, gioielli sfarzosi a non finire. Poi il brindisi del presidente americano. Ladies and gentlemen, please stand with me and raise your glasses as I propose a toast to Her Majesty the Queen, to the vitality of the special relationship between our peoples, and in the words of Shakespeare, to this blessed plot, this earth, this realm, this England. To the Queen. Ecco, in questo brindisi Barack Obama una volta di più ha cercato di rassicurare la Gran Bretagna. C'è un piccolo complesso di cui così si è parlato molto in questi giorni, ne ha scritto anche il nostro corrispondente da Londra, Leonardo Maisano, e cioè gli inglesi soffrono del fatto che gli Stati Uniti di Barack Obama forse non hanno più quella relazione speciale con la Gran Bretagna che hanno avuto altri presidenti americani. In effetti, a partire da Ronald Reagan in avanti, Ronald Reagan, poi Bill Clinton, poi George W. Bush, insomma, hanno sviluppato, prima con Margaret Thatcher, poi con Blair, un rapporto fortissimo. E dunque con Barack Obama, primo presidente del Pacifico, nato alle Hawaii, il primo presidente americano che con l'Europa non aveva davvero sviluppato così un rapporto emotivo come potevano averlo sviluppato i suoi predecessori, c'è stata la percezione che ci fosse un po' di lontananza anche nei confronti della Gran Gran Bretagna. E dunque questo viaggio è stata l'occasione per Barack Obama non solo per riaffermare quanto speciale sia il rapporto con la Gran Bretagna, ma più in generale con l'Europa. Addirittura il presidente ha scritto un articolo con David Cameron, un articolo uscito questa mattina su Time, lo hanno scritto insieme, e a un certo punto la frase chiave è: la relazione fra i nostri paesi non è una relazione speciale, è una relazione essenziale. The peace agreements between Israel and Egypt and Israel and Jordan are vital, but they're not enough. We must also find a way to forge a lasting peace with the Palestinians. Proprio mentre Barack Obama era ai suoi incontri di ieri a Londra, quasi contemporaneamente Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano, ha parlato al Congresso americano riunito in seduta plenaria, e è stato un discorso, devo dire, non durissimo come qualcuno si poteva aspettare, ma un discorso molto preciso, affrontato alcune delle tematiche che hanno creato polemiche fra il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il primo ministro israeliano, soprattutto quella in relazione ai confini del 1967. La tematica medio orientale, quella dello scontro con la Libia, la tematica degli aiuti ai paesi arabi, aiuti in cambio di riforme democratiche, saranno al centro del G8 di Deauville che partirà domani. L'idea, ci hanno detto fonti alla Casa Bianca, è quella di mettere insieme un pacchetto costruito sulla falsariga di quello che ha presentato il presidente americano la settimana scorsa, un pacchetto di aiuti economici di alcuni miliardi di dollari che dovrebbe lasciare il segno, un piano Marshall per lo sviluppo del mondo arabo, per lo sviluppo soprattutto di Egitto e Tunisia, ma chiaramente un messaggio alle altre popolazioni di paesi arabi che vivono sotto il tallone della dittatura. Purtroppo sappiamo che c'è stato questo uragano che ha colpito il Missouri, un uragano devastante. Barack Obama ha anticipato il suo rientro, cercherà di rientrare prima domenica proprio per andare a visitare le zone devastate. Ma c'è stato anche un evento straordinariamente positivo. La Chrysler ha ripagato il suo debito al governo americano. Il presidente Obama da Londra ha emesso un comunicato dicendo come questo sia avvenuto addirittura con 6 anni di anticipo. Poco più tardi il vicepresidente Joe Biden ha chiamato personalmente Sergio Marchionne per congratularsi per il modo in cui il manager italiano ha gestito questa situazione difficilissima. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee di cui potremmo parlare, continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Il 31 di maggio esce in DVD con il titolo Ride, Rise, Roar, il film documentario che, girato durante l'ultimo tour di David Byrne, l'ex frontman della band newyorkese Talking Heads, sta spopolando. Dei Talking Heads vi faccio ascoltare Road to Nowhere. Da Londra è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.